all'uscita del supermercato ti ho incontrato. Carrello, l'ho fatto io. No, perché non ce la fa? Fatto io. Inferno. Al distributore di benzina. Reggio io. Reggio io. Benzina. No, scusa, ascoltami. È il mio lavoro. Al semaforo sul parabrezza c'è una mano nera con la pezza. E mi trovo quel tuo sguardo malandrino che mi dici già 2 euro papà Nino. Immigrato, quanti spiccioli t'avrò già dato. Ancora, ancora. Immigrato, mi prosciughi tutto il fatturato. Italiano.